Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Hollywood fine anni 60. Un giovane regista italo-americano, creativo, arrogante, talentuoso, riceve una proposta milionaria dalla Paramount Pictures. Dovrebbe girare Il Padrino, dal romanzo di Mario Puzo. Quel giovane regista si chiama Francis Ford Coppola. Ma la proposta, almeno inizialmente, lo getta nella disperazione. «Vogliono che io diriga questa spazzatura», dice al padre, una volta tornato a casa. «Ma io non voglio farlo. Io voglio fare film d'arte». Dietro alla scelta di Coppola c'è il profilo diabolico di uno dei più scaltri produttori hollywoodiani. Un uomo inarrestabile, senza scrupoli, Robert Evans, da poco diventato il direttore artistico della Paramount Pictures. È un uomo potente, Evans, e vuole assolutamente un italo-americano a dirigere il suo costosissimo mafia movie. Ne beneficerà, secondo lui, il botteghino. Nelle sue parole, il pubblico dovrà respirare gli spaghetti, smells the spaghetti. E il pubblico, dandogli ragione, accorrerà in massa. Oggi Destini Incrociati fa un viaggio nelle leggende e nei miti della Hollywood anni 70, la cosiddetta New Hollywood. Fuori dai cancelli della Mecca del cinema si consuma uno dei decenni chiave della storia americana. Le contestazioni giovanili, il crepuscolo del Vietnam, l'affermazione dei grandi broadcast televisivi, la frattura tra società e politica sancita dal sanguinoso conflitto asiatico. Tra i capannoni dei grandi studios, il cinema americano cambia. Emergono i movie brats, i ragazzacci, Scorsese, Coppola, Spielberg, Lucas. E artisti contro realizzano capolavori simbolo della sete di libertà e di contestazione delle nuove generazioni. Da Easy Rider a Gangster Story. Non si contano i cult movie destinati all'immortalità. Le immagini giuste per riempire gli occhi di chi ha vissuto Woodstock. We're not gonna take it. We're not gonna take it. We're not gonna take it. Il nostro viaggio di oggi è partito da Coppola e da Robert Evans. È partito dal Padrino, uno dei film che hanno segnato questo decennio. Ma i protagonisti di oggi, vedremo, non sono né Coppola né Evans. Di Evans però ci è utile, molto utile dire qualcosa per capire ancora una volta come il destino sia in grado di tracciare delle curve davvero imprevedibili. Good afternoon. My name is Robert Evans and I'm senior vice president of Paramount Pictures. L'uomo che si è educatamente presentato, alla fine degli anni 60 è uno degli uomini più potenti di Hollywood. Ha iniziato come attore negli anni 50, grazie all'amicizia con la diva Norma Shearer. Il suo talento è scarso, ma il contatto con il mondo del cinema gli fa scoprire la sua vera vocazione: fare montagne di soldi come produttore, con uno stile aggressivo e senza scrupoli. È stata la grande Norma Shearer a farmi entrare nel mondo del cinema. Ho provato a sfondare come attore, ma francamente ero davvero un cane. Tuttavia, le mie minime capacità recitative potevano essere impiegate nello show business, nella contrattazione. E così sono diventato un produttore. Nel 1969 Evans approda alla Paramount. Qui infila una serie di clamorosi successi: The Italian Job, Harold and Maude, La Conversazione e soprattutto Love Story. Love Story era un film perfetto per quel periodo. Una storia d'amore struggente, tragica, seducente, con due protagonisti bellissimi e coinvolgenti. L'ideale per fare un sacco di soldi. In effetti, Love Story incassa una cifra spropositata. Evans incarna in modo quasi irreale lo stereotipo del produttore ricco e potente. La sua fama di tombeur de femme completa il personaggio. La parte della protagonista di Love Story va ad un'attrice meravigliosa, tra le più sexy della storia del cinema americano, che è anche la terza moglie di Evans. È Ally McGraw. Ally era una bellezza straordinaria, elegante, eterea, esotica. Era splendida, sicuramente più bella che brava. Ma grazie a Love Story riuscì addirittura a raggiungere la nomination all'Oscar. È vero, ho avuto molte donne nella mia vita, ma posso dire di aver davvero amato Ally McGraw. Ellie McGraw nasce vicino a New York, a Pound Ridge, nel 1938. Dopo un'infanzia dura a causa di un padre violento, inizia a lavorare ancora giovanissima in uno studio fotografico, prima come redattrice, poi come modella all'Harper's Bazaar, una nota rivista americana di moda. Grazie a questa collaborazione esordisce come attrice in alcuni spot pubblicitari e qui viene notata da Evans. I due cominciano ad uscire nel 1968, si sposano un anno più tardi ed è il terzo matrimonio di Evans. Ero rimasto folgorato da quella donna incantevole. Per lei avrei fatto qualsiasi cosa e in effetti feci una cosa insolita. Dopo esserci sposati andammo in luna di miele per 3 settimane. Difficilmente mi staccavo dal lavoro per 3 settimane, ma per lei lo feci e fu meraviglioso. Il matrimonio decolla e con esso anche la carriera di Ellie. Per Love Story arrivano i Golden Globe e la candidatura all'Oscar. I maligni, non a torto, dicono non solo per meriti artistici. Il peso politico ed economico di Evans si fa sentire. Robert era una persona eccezionale, un marito straordinario. Il problema era il suo lavoro. A differenza mia, lui non aveva mai un solo progetto in testa o per le mani, ma ne pensava una dozzina alla volta. Per cui era spesso assente, distratto anche quando era presente. Così Ellie commenterà qualche anno dopo il suo rapporto con Evans, a cui dà anche un figlio nel 1970. Quando si accinge ad entrare nella colossale, lunghissima ed estenuante produzione di Il Padrino, Evans è all'apice del suo successo personale. La sua fama di vincente sembra inscalfibile. C'è un dato che curiosamente lascia intuire l'origine della crepa, di quella che rimarrà di fatto l'unica vera scottatura della sua vita votata all'eccesso. Nel 1973 Evans ha lavorato praticamente con tutte le grandi star di Hollywood, tutte, tranne una. Un grande attore che negli anni 70 diventerà un'icona, diventerà il più pagato, diventerà leggenda. Un attore che, confida agli amici, proprio non gli va a genio. Steve McQueen, la cui vita spericolata renderà famoso molti anni dopo anche Vasco Rossi. Terence Stephen McQueen nasce a Beech Grove, nell'Indiana, il 24 marzo 1930. Suo padre William è pilota di un circo volante, un divertimento di massa molto in voga negli anni 30. Abbandona lui e la madre Julia quando Stephen ha solo 6 mesi. La donna sprofonda nell'alcolismo. Insomma, non è un'infanzia facile quella del futuro divo hollywoodiano. Durante il decennio che va dalla Grande Depressione al conflitto mondiale, McQueen cresce con i nonni e gli zii. La madre lo riprende con sé alla fine degli anni 30, ma è l'inizio di un lungo tira e molla che vede il ragazzino sballottato tra i nonni, la madre, i suoi maneschi nuovi compagni e una baby gang con cui McQueen prende la via della piccola criminalità. A 14 anni, dopo un violento scambio di carezze con il patrigno, viene mandato in una sorta di riformatorio, la Boys Republic School, presso le colline Chino, in California. Qui McQueen riesce a calmare il proprio temperamento tumultuoso, tanto che farà ritorno in quell'istituto lungo tutta la propria carriera, per parlare con i ragazzi e aiutare la struttura dal punto di vista economico. Il periodo alla Boys Republic School per me è stato fondamentale. Ho imparato soprattutto a conoscere me stesso e a tirare fuori da me il meglio di ciò che avrei potuto essere e fare. Non lo dimenticherò mai. In un certo senso posso dire che mi ha cambiato la vita. Dopo un anno trascorso in giro per la California, svolgendo i lavori più disparati, e dopo qualche mese di servizio su una nave da carico che gira al largo delle coste della Repubblica Dominicana, McQueen presta il servizio militare. Inizialmente colleziona 41 giorni di prigione per atti di insubordinazione. Poi diventa un eroe, quando salva 3 commilitoni dalla morte durante una missione in Antartide. Quando si congeda con onore, decide che è il momento di dedicarsi alla recitazione. Con l'aiuto di una borsa ottenuta dall'esercito, si iscrive ad un corso e comincia a costruire il suo mito. Il talento è subito evidente. Dopo poco tempo arrivano i primi ruoli al cinema, in televisione, a Broadway. Poche cose, ma tutte molto presto. Nel frattempo, per arrotondare i miseri cachet, Steve comincia a correre, con le moto, con le macchine. Una passione che non lo lascerà più, che diventerà folle, estrema, divorante, che lo spingerà anche a correre sul set, in auto veloci da mozzare il fiato, in inseguimenti travolgenti. Sacro e profano è il suo primo ruolo importante, accanto a Frank Sinatra e Gina Lollobrigida. I Magnifici Sette, diretto da Preston Sturges, è il suo primo successo al botteghino. È possibile dimenticarne la colonna sonora? Arrivano anche La Grande Fuga e Bullet. Arriva l'incontro con un grande regista americano come Sam Peckinpah. Arriva un fiasco clamoroso proprio con la regia di Peckinpah, L'ultimo Buscadero. Arriva di conseguenza la necessità per entrambi ormai grandi amici di riscattarsi con un grande film, un grande successo. Arriva in ultimo una sceneggiatura, The Getaway, scritta da Walter Hill a partire da un romanzo di Jim Thompson. Hill la mostra a McQueen, il quale prontamente la consegna nelle mani di Sam Peckinpah. Il pacchetto viene proposto a diversi produttori. Giunge nelle mani di Robert Evans, che si dichiara non interessato a un film con McQueen. Alla fine è un'accordata di produttori semi-indipendenti a produrre il film. Ma la coppia McQueen-Peckinpah si mette sulle tracce di un'attrice che dia volto e corpo alla bella Carol, l'eroina del film. Ally McGraw, contro il volere del marito, accetta la parte. Nei mesi in cui viene battuto il primo Chuck, i Deep Purple pubblicano Highway Star, una canzone sulla velocità, sulla vita vissuta al massimo, bruciata in fretta. Non c'è commento migliore allo spirito Bigger Than Life di Steve McQueen. Destini incrociati. Destini incrociati oggi è sul set americano di uno dei grandi cult movie del cinema, The Getaway di Sam Peckinpah. Protagonisti Steve McQueen e Ally McGraw. Lui è l'attore maledetto e spericolato per definizione. Lei è una delle donne più belle del mondo, sposata con il produttore Robert Evans, impegnato notte e giorno nella produzione dei Il Padrino di Francis Ford Coppola. Robert trascura la moglie, si rifiuta di produrre Getaway, non nutre simpatia per Steve McQueen. Forse ha già capito che il destino gli ha preparato in questo modo beffardo l'unica vera umiliazione della sua vita. Il regista del film, Sam Peckinpah, ricorda così l'interazione elettrica tra i due protagonisti già nei primi momenti delle riprese. C'eravamo accorti da subito di quello che stava succedendo tra loro sul set. Era una situazione delicata. Da un lato era decisamente meglio che la cosa non si sapesse troppo in giro. Evans era un uomo potente. Dall'altro, a me tornava comodo per sviluppare lo spessore dei personaggi. La stessa attrice conferma quest'impressione. Ero una grande fan di Steve McQueen. Per me era molto eccitante l'idea di lavorare con lui. E da subito, dai primi sguardi sul set in Texas, si è creato un'alchimia particolare. Le riprese si svolgono nella cittadina di El Paso, in Texas. Una città tutta particolare, tagliata in due da un fiume, il Rio Grande, e dal confine messicano. È la parte americana di un'immensa metropoli completata da Ciudad Juárez, la sezione messicana. A dividerle un fiume, il leggendario Rio Bravo, raccontato da decine di film western. Dean Martin ha cantato una meravigliosa canzone dedicata al fiume messicano, colonna sonora di Un dollaro d'onore di Howard Hawks. By the river, Rio Bravo, I walk all alone. A El Paso si ricordano ancora di McQueen, di Ally McGraw, della loro storia, della pirotecnica lavorazione di The Getaway. Così ricorda la loro storia Norma Mayo, responsabile della Texas Film Commission. Durante il film ricevevo numerose telefonate da giornalisti di riviste scandalistiche interessati alla vicenda di McQueen e della McGrove. Dicevo loro che non ne avevo la più pallida idea, anche se tutti sul set sapevano che avevano una storia. The Getaway racconta la vicenda di Doc McCoy, rapinatore in prigione interpretato proprio da McQueen. Doc riesce a uscire con l'aiuto di sua moglie, a vendicarsi di chi l'aveva incastrato e a fuggire in Messico con il bottino di una rapina epocale, con la bellissima moglie al fianco. Le numerose sequenze in cui Steve e Ali compaiono insieme, riviste oggi, sembrano ancora cariche di quella tensione erotica che ha favorito il divampare della loro relazione. Relazione che, stando alle testimonianze dei membri della troupe, inizia prestissimo, già dai primi giorni di ripresa. Su quel set avevo realizzato un pensiero importante. Avevo 33 anni e sentivo che la mia vita doveva cambiare, che dovevo assecondare le mie reali necessità, cercare di fare delle cose per me. Il lavoro impossibile di Robert rendeva la mia vita difficile. Non potevo sapere, però, che il destino stava per trasformare la mia vita. Così, mentre Evans è lontano, impegnato a sorvegliare il set di Il Padrino, Ally McGraw inizia una relazione torrida con Steve McQueen. Peckinpah cerca di blindare il set e di indirizzare nella giusta direzione il rapporto tra i due attori. Ricordo in particolare una scena emblematica di quello che stava succedendo su quel set, quella in cui Steve colpisce con uno schiaffo Ally. Non era in sceneggiatura e lui la colpì davvero, improvvisamente. Tanto che lei rimase davvero sorpresa, si arrabbiò. Era un regolamento di conti interno a una coppia di innamorati. Ma quella scena, come altre, possiede una forza incredibile. Quando ben presto il mondo scopre la storia tra McQueen e Ally, Robert Evans, lo squalo inarrestabile di Hollywood, per la prima volta si sente ferito, tradito. L'unica donna tra le tante già conquistate che conquisterà, che dice di avere amato veramente, lo abbandona. E per un incrocio di destini succede per un film che non ha voluto produrre e con un attore a cui non ha mai voluto concedere alcuna possibilità. Devo ammettere che fu un duro colpo, ma ho avuto le mie rivincite. Il destino poi ha fatto il resto. Bob Evans ha ragione. Il destino ha in serbo più di una rivincita. Mentre il potente produttore incassata la stilettata smaltisce il dolore e va avanti per la sua strada, McQueen e McGraw, ottenuto il divorzio, si sposano. Vedremo come non sarà certo un matrimonio felice il loro. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati sta seguendo le vite di Steve McQueen e Ally McGraw. I due si incontrano sul set di Getaway di Sam Peckinpah. Si innamorano a prima vista, un amore travolgente, folle, dirompente. Ma Ally è sposata con Robert Evans, il più potente produttore hollywoodiano, boss della Paramount. Ally lo pianta all'istante. Si sposa con Steve McQueen. Ma l'idillio d'amore dei due attori deve fare i conti con il destino. Le azioni hanno quasi sempre delle conseguenze, talvolta impreviste e imprevedibili, altre volte rispondenti alla logica dei fatti. Quando si agisce impulsivamente sull'onda delle emozioni o travolti dalle passioni, non è sempre facile calcolare il peso delle proprie scelte. Ally McGraw è sempre stata un temperamento irrequieto, ex ballerina, ex modella, è diventata attrice. Ma purtroppo per lei, prima di The Getaway, il suo successo era legato ad un nome, quello del suo ex marito, Robert Evans. Secondo me Ally aveva del talento, ma era necessario proporle i ruoli giusti. Io avevo il fiuto e la capacità per farlo, altri no. Anche il ruolo di Getaway è lontano dalle sue corde. Purtroppo per lei, dopo quel film, nessuno è stato in grado di proporle i ruoli giusti. Un po' per vendetta, un po' per la scelta legittima di separare definitivamente la propria strada da quella della ex moglie, Evans si svincola anche artisticamente da Ally. E succede che dopo Getaway, dopo il divorzio, dopo il rimatrimonio con McQueen, Ally McGraw non lavori più. La sua carriera si ferma per 6 lunghissimi anni. Certo, il suo talento di attrice non era eccelso, e questo naturalmente non l'aiuta ad essere scelta solo per le sue doti. Ma la sua nuova relazione mette la parola fine alla prima parte della sua carriera, quella più importante, quella che l'aveva spinta fino alla nomination agli Oscar. Stare accanto a uno degli attori più problematici di Hollywood, però, non è facile nemmeno se si è innamorati. Così, dopo un paio di anni di idillio, l'alcol, la droga, gli sbalzi d'umore fiaccano la passione. La carriera di McQueen, però, va comunque avanti. Il talento riesce a farsi largo. Hollywood, tuttavia, riesce a fargli pagare lo scotto di quell'atto scellerato, soffiare la moglie al produttore più potente. Maledetti bastardi, sono ancora vivo! Quella che avete appena sentito è una battuta da Papillon, splendido film del 1973, diretto da Franklin Schaffner e interpretato magnificamente da McQueen accanto a Dustin Hoffman. Il sogno dichiarato di McQueen è sempre stato l'Oscar. Pur così anticonvenzionale, l'attore pilota, spericolato per definizione, desidera semplicemente la consacrazione definitiva del tempio del cinema. La possibilità arriva proprio grazie a Papillon. Sembra più di una semplice eventualità. McQueen è straordinario in quel film e in quell'anno nessuno sembra potergli soffiare la statuetta. La doccia gelata, però, arriva addirittura all'annuncio delle nomination. Non arriva la nomination, non arriverà mai l'Oscar. L'attore americano, però, incide nel profondo l'immaginario collettivo. Ne sono una prova le decine di canzoni che gli sono state dedicate negli anni, come l'energica ballata dei Drive-By Truckers, intitolata proprio Steve McQueen. McQueen non era un uomo semplice. Delle donne amava soprattutto il momento della conquista. Anne Margit, Jacqueline Bisset e altre splendide donne di Hollywood sono finite nel suo letto. Inoltre, il rapporto con l'alcol e con ogni genere di droga ha sempre generato problemi e situazioni difficili. I 6 anni al fianco di Ally McGraw diventano progressivamente un inferno. Dal paradiso dei primi tempi, i due si rendono conto che resta loro solo l'eco di 2 carriere diversamente rovinate e uno stanco tragitto verso un nuovo divorzio, che arriva puntuale nel 1978. Quando scoprì che Steven aveva una storia con Barbara Minty, decisi che poteva bastare così. E purtroppo capì anche di aver sbagliato molto nella mia vita. Forse Ellie ha anche letto le sardoniche parole pronunciate da Evans a proposito del suo matrimonio con McQueen, che in qualche modo anticipavano quel che sarebbe successo. Non lo sanno, ma la loro storia è qualcosa di passeggero. A lui non frega un c***o di lei, è un uomo bizzarro, non può essere veramente sposato, perché non può avere una vita normale, sana. Semplicemente la distruggerà col tempo. Ellie torna sul grande schermo grazie al vecchio amico Sam Peckinpah in Convoy, accanto a Chris Christopherson. La sua performance non è un granché. Così l'attrice si rassegna ad una mediocre carriera in alcune serie televisive americane di successo, tra cui Dynasty. Steve McQueen, guardato con sospetto da tutta l'industria del cinema americano, dopo la delusione di Papillon, spara ancora qualche cartuccia a salve. L'inferno di cristallo e poco altro. La sua è una progressiva discesa negli abissi dell'autodistruzione. Quando sposa Barbara Mirny è già malato, tumore alla pleura. Forse l'esposizione all'amianto, l'amianto delle navi su cui lavorava nei Marines, l'amianto delle tute ignifughe e delle folli corse in auto e in moto. McQueen muore il 7 novembre del 1980. La sua vita spericolata cessa. I tanti destini che ha incrociato e cambiato ora lo piangono. Entra nel mito. E Sheryl Crow, anni dopo, gli dedica una splendida canzone. You can charm me on my cell phone, you can page me all night long, but you won't catch this free bird, I'll already be long gone. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.